giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ancora buona domenica da Giampaolo Mauro e Daniele Lettig. Gran parte di questa edizione sarà dedicata alla Dunata Nazionale degli Alpini in corso a Udine. Questa mattina la sfilata è cominciata puntualmente alle 9.30 e qualche minuto prima era arrivata nella zona del palco la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ascoltiamo. Sono molto felice, credo che fosse doveroso esserci, perché noi abbiamo un grande bisogno di valorizzare i nostri legami, di valorizzare il nostro senso d'appartenenza, di valorizzare il nostro orgoglio. E questo è un luogo nel quale quei sentimenti sono evidenti. Tra l'altro oggi è la festa della mamma. Questa è una grande famiglia e lo ricordiamo sempre. Ma ricordiamoci che la nostra seconda mamma è la patria. Il presidente dell'associazione Alpini Favero chiede in qualche modo di tornare a istituire almeno una riserva di giovani alpini. Cosa ne pensa lei? Ma sono tutti temi che ovviamente noi abbiamo a cuore, quindi sicuramente è un dibattito che bisogna aprire. Inizialmente lontano dal palco delle autorità, il ministro della difesa Guido Crosetto, nipote e figlio di alpini, è stata una penna nera egli stesso. Alpino ha voluto essere qui oggi all'ammassamento, non è una cosa usuale, diciamo, non succede in tutte le adunate. In questo sfilamento non sono il ministro, sono un alpino. Poi quando arriveremo davanti alla tribuna salgo e faccio di nuovo il ministro. Adesso sono un alpino che sfila. Il ministro dei rapporti con il Parlamento, il pordenonese Luca Ciriani, illustra il legame speciale del territorio con gli alpini. La presenza delle massime istituzioni dello Stato e la dimostrazione della gratitudine che non i partiti ma le istituzioni, il paese, l'Italia riconosce agli alpini, alla storia straordinaria degli alpini. Devo dire che qui a Udine la Dunata ha un significato più forte, un significato speciale, perché la storia degli alpini è la storia del Friuli. Gli alpini e il Friuli sono un'unica cosa. La nostra storia, la storia friulana, è intrecciata con la storia degli alpini. A fare gli onori di casa, oltre al sindaco di Udine, che ascolteremo tra poco, il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che così interpreta il senso di questa manifestazione. Il Friuli Venezia Giulia oggi e Udine sono il cuore dell'Italia, non soltanto perché c'è tutta l'attenzione del paese a Udine, ma perché gli alpini rappresentano il cuore dell'Italia, la solidarietà, lo spirito di aiuto reciproco, che è quello che purtroppo fino a qualche mese fa stava vivendo il paese. Devo dire anche tramite gli alpini, e penso anche tutte le associazioni degli alpini, siamo riusciti a dare una risposta al paese. Si è conclusa poco fa la lunga diretta televisiva a cura della nostra redazione, andata in onda prima su Rai 3 nazionale e poi a diffusione locale fino a mezzogiorno, ma la sfilata si concluderà solo a sera. Il punto nel collegamento con Armando Mucchino dallo studio di Udine. Sotto una pioggia impietosa continuano a sfilare le penne nere della 94esima Dunata Alpina di Udine, apertasi questa mattina alle 9 con lo striscione con sul motto Alpini, la più bella famiglia. Sfilata che continuerà perlomeno fino alle 20 con il passaggio degli alpini della sezione di Udine, con il gonfalone della città e il vessillo della sezione di Vicenza, città che ospiterà la Dunata del 2024. È stato calcolato che alla fine saranno tra i 70 e 80 mila le penne nere a passare sotto la tribuna d'onore di piazza Primo Maggio, tutti partiti dalla zona di ammassamento ridosso di piazza Lasopo per andare a sciogliersi in porta Aquileia. Il passaggio delle sezioni del Friuli Venezia Giulia è previsto intorno alle 17. Incalcolabile poi il numero di persone che dietro le transenne sotto gli ombrelli stanno seguendo la sfilata lungo il percorso. Dopo il presidente del Consiglio Meloni, soffermatasi per oltre un'ora, a presidiare la tribuna d'onore sono rimasti i ministri Crosetto e Ciriani. Verso le 11.30 è arrivato il presidente del Senato, La Russa. In città sta reggendo egregiamente l'organizzazione logistica e di sicurezza, con oltre 3.000 persone impegnate fin dalle prime luci dell'alba. Le previsioni meteo parlano però di pioggia per tutto il giorno, ma a quanto pare non sta frenando l'afflusso del pubblico e tantomeno degli alpini. Torniamo ora alle voci raccolte da Antonio Di Bartolomeo e Lillo Montalto Monella. Ecco quella del capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Pietro Serino. Questa è una bellissima giornata nonostante il tempo piovoso, perché grazie agli alpini in servizio in congedo l'esercito è in mezzo ai cittadini, sono straordinarie occasioni e noi vogliamo essere vicini al paese, e ringrazio veramente tutti gli alpini in servizio in congedo per questa straordinaria occasione. Questo è l'esercito che ci piace, un esercito capace di interpretare tutti i bisogni del paese. Gli alpini sono un esempio straordinario di questo. lo servono in ogni modo, in armi quando c'è bisogno e attraverso le iniziative di solidarietà quando gli italiani hanno bisogno di noi. Quindi grazie veramente a tutti gli alpini d'Italia per essere una parte importante dell'esercito. Il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, ha rinnovato, come abbiamo sentito poco fa, l'appello alla politica affinché sia assicurato agli alpini il ricambio che l'assenza della leva obbligatoria non consente più. È necessario, sostiene, non solo all'arma ma anche alle attività di protezione civile. Questo è un messaggio che lanciamo non solo al governo ma anche al Parlamento, proprio per dire ai ragazzi di oggi, effettivamente noi lo stiamo dimostrando con i nostri campi scuola, se sollecitati rispondono presente, quindi non è vero che i ragazzi non siano disponibili e quindi speriamo e chiediamo di poter questa nostra esperienza di campi scuola renderla più efficace, sempre per dare soddisfazione agli stessi ragazzi e dall'altro lato per avere della riserva sia militare ma anche e soprattutto civile, e quindi speriamo insieme di poter costruire questa opportunità che sarà utile per i giovani e sarà anche utile per la nazione. Chiudiamo con il padrone di casa, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, alla prima grande manifestazione del suo mandato. Abbiamo l'onore di ospitare questa meravigliosa sfilata, abbiamo il Presidente del Consiglio, abbiamo un Ministro dei Rapporti, abbiamo un Ministro della Difesa, è un grande onore per Udine. Un grande onore vedere tutta questa persone che hanno un grande affetto per il paese e per le nostre genti, e quindi un grande onore. Teniamo alta la bandiera di Udine, del Friuli, degli Alpini e della nostra regione. Le 12:22 minuti, uno sguardo alla situazione del tempo, cielo coperto ovunque, temperature registrate alle 11, naturalmente ci sono ampie zone sulle quali ci sono precipitazioni. A Trieste 15,5 gradi, vento da est-nord-est Bora che soffia 20 km orari medi con raffiche che hanno raggiunto i 45 orari. A Gorizia e a Pordenone ci sono 15 gradi, a Udine 13,5, nell'area montana Tolmezzo 10, a Tarvisio 8, a Sappada e a Forni di Sopra 7, sul Piancavallo 6 gradi e in quota abbiamo sullo Zoncolan e sul Lussari 1,5 gradi, a Grado 16, a Lignano 14. Queste erano invece le previsioni dell'ARPA. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, saranno probabili piogge da moderate ad abbondanti. Sulle prealpi carniche, nel Tarvisiano e localmente anche in pianura, le piogge potranno essere intense, mentre sulla costa saranno in genere un po' più attenuate. Sempre sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, vento da nord-est moderato anche sui monti in quota. Quota neve a 1700-2000 metri circa. Per domani, nella prima parte della mattinata, sarà possibile nuvolosità variabile, poi cielo in prevalenza poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sulla zona montana. La probabilità di qualche locale rovescio pomeridiano sarà piuttosto bassa, ma non del tutto esclusa, specie sulla fascia prealpina. Venti a regime di brezza, in serata inizierà a soffiare bora moderata sulla costa, progressivamente più sostenuta nella notte. Sono tornate nelle piazze italiane le azalee della ricerca. Chi risponde con un'offerta di 18 euro acquista un'azalea e contribuisce allo sforzo dei ricercatori dell'AIRC impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. Abbiamo sentito a Trieste Giannino Del Sal, da anni punto di riferimento della ricerca in ambito oncologico all'ICGEB. La nostra regione ha una delle incidenze più alte in Italia del tumore alla mammella, si parla di circa 1300 casi all'anno di tumore alla mammella. Un motivo per questo è, penso sia dovuto alla possibilità di avere un'intensa strategia di screening, circa 6 persone su 10 si sottopongono regolarmente agli screening, e poi anche il fatto che questa regione ha una longevità piuttosto elevata rispetto ad altre regioni. Negli ultimi anni sono stati importanti avanzamenti che riescono finalmente a poter colpire anche i tumori che erano un po' più refrattari prima, come i tumori cosiddetti HER2 negativi o HER2 low, che possono essere colpiti adesso con un farmaco che proprio è indirizzato, grazie a un anticorpo che riconosce le cellule tumorali, a indirizzare dei farmaci citotossici che distruggono proprio la cellula. In chiusura, lo sport. Fiorentina-Udinese, che si gioca alle 15, è uno dei match chiave della giornata di oggi del massimo campionato. Le due squadre, che in classifica hanno 46 punti come Torino, Bologna e Monza, si affrontano in uno scontro diretto che potrebbe fare momentanea chiarezza sull'ottavo posto, l'ultimo che apre la possibilità di partecipare a una competizione europea nella prossima stagione. E nel calcio di Serie C la Triestina festeggia la salvezza arrivata all'ultimo respiro nella gara di ieri sul campo del San Giuliano. Un gol di Tavernelli nel recupero ha dato il successo agli alabardati, 2-1 e retrocessione scongiurata. È tutto per questa edizione che è stata realizzata da Daniele Lettig e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Giuliano Pecorari e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. Le notizie continuano fra poco su Rai 3 con il telegiornale regionale delle 14, prossimo GR del Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio alle 18.30. A tutti voi grazie per l'attenzione, ancora buona domenica. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.